Neemia. Parole di Neemia, figlio di Cacalia. Nel ventesimo anno, nel mese di Casleu, mentre io mi trovavo nella cittadella di Susa, arrivò da Giuda Canani, uno dei miei fratelli, assieme ad alcuni altri. Io li interrogai sui giudei, i superstiti che erano scampati dalla prigionia, e su Gerusalemme. Essi mi dissero: «I superstiti che sono scampati dalla prigionia sono laggiù nella provincia in grande miseria e umiliazione. Le mura di Gerusalemme sono piene di brecce, le porte distrutte dal fuoco». Quando udii queste parole, mi posi a sedere e piansi. Feci cordoglio per più giorni e stetti in digiuno, pregando al cospetto del Dio del cielo. Dissi: «Ah, Signore, Dio del cielo, Dio grande e terribile, che mantieni il patto e la misericordia per coloro che t'amano e osservano i tuoi comandamenti. Sia il tuo orecchio attento e i tuoi occhi aperti. Ascolta la preghiera del tuo servo, che rivolgo ora a te, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi. Io confesso i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te. Anch'io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Ci siamo comportati iniquamente verso di te. Non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu ordinasti a Mosè, tuo servitore. Ma ricordati, ti prego, della parola che hai confidato a Mosè, tuo servitore, dicendo: se voi sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli. Se però tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li praticherete, quand'anche i vostri esiliati fossero ai confini del cielo, io li radunerò di là e li ricondurrò nel luogo che ho prescelto per farvi abitare il mio nome. Questi sono ora i tuoi servi e il tuo popolo, che hai redento con la tua grande potenza e la tua formidabile mano. Ah, Signore, sia il tuo orecchio attento, ti prego, alla supplica del tuo servo e alla supplica dei tuoi servi che ricercano il timore del tuo nome. Oggi stesso, ti prego, concedi un favorevole esito al tuo servo, ottenendogli buona accoglienza presso quest'uomo». Io ero allora coppiere del re. Nel mese di Nisan, l'anno ventesimo del re Artaserse, essendo io incaricato del vino, presi il vino e lo porsi al re. Non ero mai stato triste in sua presenza. Mi disse il re: «Perché questo volto triste? Eppure non sei malato. Ciò non è altro che sofferenza del cuore». Allora fui preso da una grande paura e dissi al re: «Viva il re in eterno! Come potrebbe non essere addolorato il mio volto, quando la città dove stanno i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono state divorate dal fuoco?» Il re mi domandò: «Che cosa desideri?» Invocai allora il Dio del cielo e risposi al re: «Se questo piace al re e se il tuo servo è gradito agli occhi tuoi, fammi andare in Giuda, alla città dei sepolcri dei miei padri, affinché io la riedifichi». Il re mi domandò, e la regina stava assisa al suo fianco: «Quanto tempo durerà il tuo viaggio e quando ritornerai?» Parve bene al re di lasciarmi partire, e io gli fissai una data. Dissi ancora al re: «Se piace al re, mi vengano date lettere per i governatori dell'oltrefiume, affinché mi concedano il passaggio fino a che io arrivi in Giuda,

per conto del governatore dell'Oltrefiume. Vicino a costoro lavorò per le riparazioni Uzziel, figlio di Caraia, uno degli orefici, e accanto a questi riparò Anania, uno dei profumieri. Essi restaurarono Gerusalemme fino al muro largo. Al loro fianco restaurò Refaia, figlio di Cur, capo di metà del distretto di Gerusalemme. Al suo fianco restaurò Jedaia, figlio di Carumaf, di rimpetto alla propria casa. Vicino a lui restaurò Cattus, figlio di Casabnia, Malachia, figlio di Karim, e Cassub, figlio di Pacat Moab, restaurarono il tratto seguente e la torre dei forni. Al loro fianco Sallum, figlio di Alloches, capo di metà del distretto di Gerusalemme, lavorò alle riparazioni con le sue figlie. Ripararono la porta della valle Canum e gli abitanti di Zanoac. Essi la costruirono, vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Ricostruirono inoltre 1000 cubiti di muro, sino alla porta dell'Etame. Malachia, figlio di Rechab, capo del distretto di Bet Kerem, riparò la porta dell'Etame, la ricostruì, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. La porta della sorgente la restaurò Sallun, figlio di Kol Koze, capo del distretto di Mizpa. Egli la costruì, la ricoperse, vi pose i battenti, le serrature e le sbarre. Ricostruì inoltre il muro della cisterna di Siloe, presso il giardino del re, fino ai gradini che scendono dalla città di Davide. Dopo di lui, Neemia, figlio di Azbuk, capo di metà del distretto di Bet-Zur, lavorò alle riparazioni di rimpetto ai sepolcri di Davide fino alla cisterna artificiale e fino alla casa dei prodi. Dopo di lui restaurarono i Leviti, Rekum, figlio di Bani, e vicino a lui Casabia, capo di metà del distretto di Keilah, per il suo distretto. Dopo di essi lavorarono alle riparazioni i loro fratelli, Binnui, figlio di Kenadad, capo dell'altra metà del distretto di Keilah. Accanto a lui Ezer, figlio di Giosuè, capo di Mizpa, riparò un altro settore, di fronte alla salita dell'arsenale, verso l'angolo. Dopo di lui Baruch, figlio di Zaccai, restaurò un altro settore, dall'angolo fino all'ingresso della casa del sommo sacerdote Eliasib. Meremot, figlio di Uria, figlio di Accor, restaurò, dopo di lui, un altro settore, dall'ingresso della casa di Eliasib sino alla fine di essa. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i sacerdoti abitanti delle adiacenze. Dopo di loro restaurarono Beniamino e Cassub, di rimpetto alle loro case. Dopo di essi Azaria, figlio di Maaseia, figlio di Anania, lavorò alle riparazioni presso la sua casa. Binnui, figlio di Kenadad, riparò dopo di lui un altro settore, dalla casa di Azaria fino alla curva, cioè all'angolo. Palal, figlio di Uzai, lavorò di rimpetto all'angolo e alla torre che sporge dalla casa superiore del re, che dà sul cortile della prigione. Dopo di lui lavorò Pedaia, figlio di Pareos. Gli oblati che abitavano Lofel restaurarono fin di rimpetto alla porta delle acque verso oriente e di fronte alla torre sporgente. Dopo di essi, quelli di Tecoa restaurarono un altro settore di fronte alla grande torre sporgente e fino al muro dell'Ofel. Al di sopra della porta dei cavalli, i sacerdoti lavorarono alle riparazioni, ciascuno di fronte alla propria casa. Zadok, figlio di Immer, restaurò dopo di loro di fronte alla propria casa, e dopo di lui restaurò Semaia, figlio di Secania, custode della porta orientale. Dopo di questi Anania, figlio di Selemia, e Canun, sesto figlio di Zalaf, ripararono un altro settore. Dopo di loro Mesullam, figlio di Berechia, restaurò di fronte alla sua camera. Malchia, uno degli orefici, restaurò dopo di lui sino alla casa degli oblati e dei mercanti, di rimpetto alla porta della rassegna e fino alla sala alta dell'angolo. Tra la sala alta dell'angolo e la porta delle pecore lavorarono alle riparazioni gli orefici e i mercanti. Quando Sanballat venne a sapere che noi edificavamo le mura, si indignò e si adirò terribilmente. Prese a schernire i giudei, gridando davanti ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria: «Che cosa stanno facendo questi miserabili giudei? Saranno forse lasciati agire? Offriranno sacrifici e finiranno in un giorno solo? Faranno forse rivivere dai mucchi di polvere le pietre già bruciate dal fuoco?» Tobia, l'ammonita che gli stava a fianco, esclamò: «Costruiscano pure, ma se uno sciacallo si lancerà contro, rovescerà il loro muro di pietra. Ascolta, o nostro Dio, perché siamo oggetto di scherno. Fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali alla derisione in una terra di schiavitù. Non nascondere la loro iniquità e il loro peccato non sia cancellato dal tuo cospetto, giacché essi hanno pronunciato insulti in faccia ai costruttori. Orbene, noi ricostruimmo le mura, completandole totalmente fino a mezza altezza. La volontà del popolo era di agire». Ma quando Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdoditi vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme avanzava e che le brecce cominciavano a chiudersi, andarono in grande collera e tutti insieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi tumulti. Ma noi invocammo il nostro Dio e ponemmo sentinelle contro di essi giorno e notte a difesa dai loro attacchi. Giuda, però, cominciò a dire: «La forza del manovale viene meno ed enormi sono le macerie, non saremo in grado di rialzare le mura». I nostri nemici proclamavano: «Non s'accorgeranno di nulla, né nulla vedranno fino a che noi piomberemo in mezzo a loro e li massacreremo, così metteremo fine all'impresa». Per 10 volte ci vennero a dire i giudei che abitavano in mezzo ad essi: «Salgono contro di noi da tutti i luoghi dove abitano». Allora, nelle parti più basse del terreno, dietro le mura, io stabilii degli spiazzi e vi disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le lance e gli archi. E come ebbi ispezionato bene, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: «Non temeteli, ricordatevi del Signore grande e terribile. Combattete per i vostri fratelli, i vostri figli e le vostre figlie, per le vostre mogli e le vostre case». Quando i nostri nemici si accorsero che noi eravamo stati informati, Dio annientò il loro piano e noi tornammo tutti alle mura, ciascuno al suo compito. Da quel giorno metà dei miei uomini s'occupava dei lavori e l'altra metà, muniti di lance, scudi, archi e corazze, assieme ai capi, stavano dietro a tutta la gente di Giuda. Coloro che costruivano le mura, coloro che portavano, che caricavano, con una mano si occupavano dei lavori e con l'altra impugnavano l'arma. I costruttori, mentre lavoravano, portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi. Accanto a me stava il suonatore di tromba. Io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: «I lavori sono importanti ed estesi, mentre noi siamo dispersi lungo le mura, lontani uno dall'altro. Orbene, da qualsiasi parte udrete il suono della tromba, radunatevi attorno a noi, il nostro Dio combatterà per noi». Così portavamo avanti il lavoro, mentre una metà dei miei impugnava le lance dallo spuntare dell'aurora fino all'apparire delle stelle. In quella stessa occasione dissi pure al popolo: «Ciascuno passerà la notte dentro Gerusalemme assieme ai suoi uomini. Così saranno essi di guardia per noi durante la notte e di giorno al lavoro. D'altra parte, né io, né i miei fratelli, né i miei uomini, né la gente di guardia che mi seguiva, ci toglievamo i nostri vestiti. ciascuno teneva nella destra la sua spada. Si levò un gran lamento da parte del popolo e delle loro donne contro i giudei loro fratelli. C'era chi diceva: «Noi, i nostri figli e figlie, siamo numerosi. Ci prenderemo dunque del grano per mangiare e vivere». C'era chi diceva: «Noi ipotechiamo i nostri campi, le vigne e le case per acquistare grano durante la carestia». Altri ancora: «Abbiamo preso denaro in prestito per i tributi del re. Eppure la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli e i nostri figli sono come i loro figli. Ecco, noi dobbiamo vendere come schiavi i figli e le figlie. Alcune delle nostre figlie sono state già ridotte in schiavitù e non abbiamo più nessuna possibilità perché i nostri campi e le nostre vigne appartengono ad altri». Quando udii il loro lamento e queste parole, mi indignai fortemente. Dopo aver deliberato dentro di me, contestai i notabili e i magistrati, dicendo loro: «Voi esercitate l'usura, ciascuno verso il suo fratello?» Convocai allora una grande assemblea contro di essi e dissi loro: «Secondo le nostre possibilità, noi abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che erano stati venduti alle genti. Voi invece vendete i vostri fratelli perché ci siano poi rivenduti». Essi tacquero, non trovando parole. Io esclamai: «Non è bene ciò che andate facendo. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere di scherno alle genti nostre nemiche? Anch'io, i miei fratelli e i miei uomini abbiamo prestato loro denaro e grano, ma condoniamo loro, vi prego, questo debito. Restituite ad essi proprio oggi i loro campi, le vigne, gli uliveti, le case e il debito d'argento, di grano, di mosto e di olio che avete richiesto loro». Essi risposero: «Restituiremo e non esigeremo più nulla da loro, faremo come tu dici». Chiamai allora i sacerdoti e davanti a loro li feci giurare che avrebbero agito secondo questa promessa. Poi scossi la piega del mio mantello ed esclamai: «Così scuota Dio dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non manterrà questa promessa, così egli venga scosso e svuotato». Tutta l'assemblea gridò «Amen», glorificando il Signore. Il popolo agì secondo quella promessa. Inoltre, dal giorno in cui il re stabilì che io fossi loro governatore in terra di Giuda, cioè dall'anno 20° del re Artaserse fino al 32° per 12 anni, io e i miei fratelli non mangiammo mai della provvigione del governatore. Invece i governatori antichi che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo prendendo giornalmente da esso 40 sicli d'argento in pane e vino. Perfino i loro servi avevano angariato il popolo, ma io non ho agito così, perché ho avuto timore di Dio. Ho anche lavorato fortemente nella ricostruzione di queste mura, benché non possedessi alcun terreno. Eppure i miei servitori erano tutti assieme là, al lavoro. Avevo a mensa 150 uomini fra giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle genti circonvicine. Ciò che si preparava giorno per giorno era preparato sul mio conto: un bove, 6 montoni scelti e uccellame, e ogni 10 giorni otri di vino in abbondanza. Ma non ho mai chiesto la provvigione del governatore, perché una grave servitù pesava già su questo popolo. Ricordati di me in bene, o mio Dio, di quanto ho fatto per questo popolo». Quando Sanballat, Tobia e Gesem l'arabo e gli altri nostri nemici furono informati che io avevo ricostruito le mura e che non vi era più alcuna breccia, quantunque fino allora non avessi ancor messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: «Vieni a un abboccamento fra di noi a Kefirim, nella valle di Oni». Essi però tramavano di farmi del male. Mandai loro dei messaggeri a dire: «Sono occupato in un lavoro enorme, non posso scendere. Perché sospendere il lavoro? Dovrei interromperlo per scendere da voi?» Per 4 volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io replicai nella stessa maniera. Allora Sanballat mandò a dirmi per una 5ª volta le medesime cose per mezzo del suo servo, che recava in mano una lettera aperta. Vi stava scritto: «Si sente dire fra le genti, e lo asserisce Gasmu, che tu e i giudei tramate di ribellarvi. È per questo che tu ricostruisci le mura. Secondo queste voci, anzi, tu diverresti il loro re, e hai persino stabilito dei profeti che proclamino di te a Gerusalemme: c'è un re in Giuda. Ora simili notizie saranno riferite al re, perciò vieni e consultiamoci assieme». Io gli mandai a dire: «Le cose non stanno come tu vai dicendo, stai inventando». In realtà tutta quella gente voleva atterrirci e diceva: «Le loro mani abbandoneranno l'impresa che resterà incompiuta». Ma tu, o Dio, fortifica adesso le mie mani. Io mi recai alla casa di Semaia, figlio di Delaia, figlio di Metabel, che si trovava impedito. Egli disse: «Incontriamoci nella casa di Dio, dentro al santuario, e chiudiamo le porte del santuario, perché verranno per ucciderti, verranno questa notte per ucciderti». Ma io risposi: «Si darà forse alla fuga un uomo come me? D'altra parte, può un uomo della mia condizione entrare nel santuario e sopravvivere? Non vi entrerò». Capii allora che Dio non l'aveva mandato. Certo, egli aveva pronunciato una profezia su di me, perché Tobia e Sanballat l'avevano pagato. Per questo era stato prezzolato, perché mi spaventassi talmente da agire in quella maniera, commettendo un peccato, avrebbero così avuto modo di farmi una cattiva fama per coprirmi di vergogna. Oh mio Dio, ricordati di Tobia e di Sanballat come hanno agito, e anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che volevano terrorizzarmi». Le mura furono condotte a termine il 25° giorno di Elul, in 52 giorni. Quando tutti i nostri nemici lo vennero a sapere, tutte le genti circonvicine furono prese da timore e si sentirono fortemente umiliate ai propri occhi, e riconobbero che quest'impresa era stata compiuta per l'intervento del nostro Dio. In quei giorni i notabili di Giuda mandavano frequenti lettere all'indirizzo di Tobia, e altrettante ne ricevevano. Molti in Giuda erano infatti legati a lui con giuramento, perché era genero di Secania, figlio di Arach, e perché suo figlio Giovanni aveva sposato la figlia di Mesullam, figlio di Berechia. Persino in mia presenza parlavano dei meriti di lui, e le mie parole gli venivano riferite, mentre Tobia mandava lettere per spaventarmi. Quando le mura furono completate e io ebbi restaurate le porte, i portinai, i cantori e i leviti furono stabiliti nei loro uffici. Posi al comando di Gerusalemme mio fratello Canani, e Anania al governo della cittadella, giacché egli era un uomo fedele e timorato di Dio più di molti altri. Dissi loro: «Non s'aprano le porte di Gerusalemme finché il sole non scotti, e appena il calore si smorza, i battenti vengano chiusi e sbarrati. Si stabiliscano posti di guardia per gli abitanti di Gerusalemme, ciascuno al suo posto, ciascuno di fronte alla propria casa». La città era spaziosa e grande, ma dentro la gente era poca e non si fabbricavano case. Il mio Dio mi suggerì di radunare i notabili, i magistrati e il popolo, allo scopo di farne il censimento. trovai il registro genealogico di coloro che erano tornati dall'esilio per primi. In esso trovai scritto: questi sono gli abitanti della provincia che tornarono dall'esilio, coloro che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva esiliati e che erano ritornati a Gerusalemme e in Giuda, ciascuno alla sua città. Vennero con Zorobabele, Giosuè, Neemia, Azaria, Raamia, Naamani, Mardocheo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Necum, Baana. Numero degli uomini del popolo d'Israele, figli di Pareos, 2172. Figli di Sefatia, 372. Figli di Arak, 652. Figli di Paat Moab, cioè i figli di Giosuè e di Joab, 2818. Figli di Elam, 1254. Figli di Zattu, 845. Figli di Zaccai, 760. Figli di Binnui, 648. Figli di Bebai, 628. Figli di Azgad, 2322. Figli di Adonicam, 667. Figli di Bigvai, 2067. Figli di Adin, 655. Figli di Ater, cioè di Ezechia, 98. Figli di Casum, 328. Figli di Bezai, 324. Figli di Carif, 112. Figli di Gabaon, 95. Uomini di Betlemme e di Netofa, 188. Uomini di Anatot, 128. Uomini di Bet Azmavet, 42. Uomini di Kiriat Yearim, di Kefira e di Beirot, 743. Uomini di Rama e di Geba, 621. Uomini di Micmas, 122. Uomini di Betel e di Ai, 123. Uomini di un altro Nebo, 52. Figli di un altro Elam, 1254. Figli di Karim, 320. Figli di Gerico, 345. Figli di Lod, di Cadid e di Ono, 721. Figli di Senaa, 3930. I sacerdoti, figli di Jedaia, della casa di Giosuè, 963. Figli di Immer, 1052. Figli di Pascur, 1247. Figli di Karim, 1017. I Leviti, figli di Giosuè, cioè di Cadmiel, di Binnui e di Odeva, 74. I cantori, figli di Asaf, 148. I portieri, figli di Ater, figli di Talmon, figli di Accub, figli di Catita, figli di Sobai, 138. Gli oblati, figli di Zica, figli di Casufa, figli di Tabbaot, figli di Cheros, figli di Sia, figli di Padon, figli di Lebana, figli di Agaba, figli di Salmai, figli di Canan, figli di Giddel, figli di Gacar, figli di Reaia, figli di Rezin, figli di Nekoda, figli di Gazzam, figli di Uzza, figli di Paseac, figli di Besai, figli dei Meunim, figli dei Nefisesim, figli di Bakbuk, figli di Kakufa, figli di Karkur, figli di Baslit, figli di Mechida, figli di Karsa, figli di Barcos, figli di Sisara, figli di Temac, figli di Neziac, figli di Catifa. Discendenti dei servi di Salomone, figli di Sotai, figli di Soferet, figli di Perida, figli di Jaala, figli di Darkon, figli di Giddel, figli di Sefatia, figli di Cattil, figli di Pokeret Hazzebaim, figli di Amon. Totale degli oblati e dei discendenti dei servi di Salomone, 392. Ecco quelli che tornarono da Tel Melach, da Tel Carsa, da Cherub Addon e da Immer, e che non avevano potuto stabilire il loro casato per dimostrare che erano della stirpe di Israele. Figli di Delaia, figli di Tobia, figli di Necoda, 642. Tra i sacerdoti, figli di Cobaia, figli di Accos, figli di Barzillai, il quale aveva sposato una delle figlie di Barzillai, il Galaadita, e fu chiamato con il loro nome. Questi cercarono il loro registro genealogico, ma non lo trovarono, e furono quindi esclusi dal sacerdozio. Il governatore ordinò loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con Urim e Tummim. La comunità, nel suo totale, era di 42.360 persone, oltre ai loro schiavi e alle loro schiave, in numero di 7.337. Avevano anche 245 cantori e cantanti. Avevano 736 cavalli, 245 muli, 435 cammelli, 6.720 asini. Alcuni dei capi famiglia offrirono doni per la fabbrica. Il governatore diede al tesoro 1.000 dracme d'oro, 50 coppe, 530 tuniche sacerdotali. Alcuni capi famiglia donarono al tesoro per la costruzione 20.000 dracme d'oro e 2.200 mine d'argento. Il resto del popolo offrì 20.000 dracme d'oro, 2.000 mine d'argento e 67 tuniche sacerdotali. I sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, una parte del popolo, gli oblati e tutti gli israeliti si stabilirono nelle loro città. Giunse il settimo mese, mentre i figli di Israele dimoravano nelle loro città, e tutto il popolo si radunò come un solo uomo nella piazza che sta dinanzi alla porta delle acque. Dissero allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini e delle donne e di quanti erano in grado di intendere. Sulla piazza che sta dinanzi alla porta delle acque, egli ne diede lettura dall'alba fino a mezzogiorno, davanti agli uomini, alle donne e a quanti erano in grado di intendere. Gli orecchi di tutto il popolo erano volti al libro della legge. Esdra, lo scriba, stava ritto su una tribuna di legno costruita allo scopo. Stavano al suo fianco, sulla destra, Mattitia, Sema, Anania, Uria, Chelchia e Maaseia. Sulla sinistra, Pedaia, Misael, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria, Mesullam. Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo, giacché egli stava più in alto di tutti, e quando l'aprì, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, elevando le mani. Poi si inchinarono e si prostrarono davanti al Signore con il volto a terra. I leviti Giosuè, Bani, Serebia, Yamin, Accub, Sabbetai, Odia, Maaseia, Chelita, Azaria, Josabad, Canan, Pelaia spiegavano al popolo la legge, mentre il popolo se ne stava in piedi. Lessero il libro della legge di Dio a sezioni, spiegandone il significato, così da far comprendere ciò che si leggeva. Mentre Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti ammaestravano il popolo, Neemia, che era il governatore, disse a tutto il popolo: «Questo giorno è sacro al Signore vostro Dio, non fate cordoglio e non piangete. In realtà, tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. Disse ancora: andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci e mandatene porzioni a chi non ha nulla di preparato, giacché questo giorno è sacro al Signore nostro. Non rattristatevi, poiché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti cercavano di tener tranquillo tutto il popolo, dicendo: fate silenzio, perché questo giorno è sacro, non vi addolorate. Tutto il popolo se ne andò allora a mangiare e a bere, a mandare porzioni ai poveri e a far grande esultanza. Avevano ben compreso, infatti, le parole che erano state proclamate loro. Il secondo giorno i capi famiglia dell'intero popolo, i sacerdoti e i leviti, si adunarono presso Esdra lo scriba per esaminare le parole della legge. Trovarono scritto nella legge che il Signore aveva prescritto per mezzo di Mosè: i figli di Israele dimoreranno in capanne durante la festa del settimo mese. Essi lo faranno sapere e proclameranno un bando per tutte le loro città e a Gerusalemme, dicendo: andate alla montagna e portatene rami d'olivo, di pino, di mirto, di palma ed alberi fronzuti, per farne capanne, come sta scritto. Allora il popolo se ne andò fuori e portò i rami e si costruirono capanne, chi sul proprio tetto, chi nei propri cortili, altri nel cortile della casa di Dio, sulla piazza della porta delle acque e sulla piazza della porta d'Efraim. Tutta l'assemblea, cioè coloro che erano tornati dalla prigionia, costruirono capanne e vi abitarono. Dai tempi di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno non avevano mai fatto altrettanto, e l'esultanza fu grandissima. Esdra diede lettura del libro della legge di Dio ogni giorno, dal primo fino all'ultimo. Celebrarono la festa per 7 giorni. Nell'ottavo giorno ci fu adunanza solenne, come vuole la legge. Il 24° giorno dello stesso mese, i figli di Israele si adunarono per un digiuno, vestiti di sacco e cosparsi di polvere. La stirpe di Israele si separò da tutti gli stranieri e si presentarono per confessare i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Ritti in piedi, al loro posto, lessero il libro della legge del Signore, loro Dio, per la quarta parte del giorno. Per un'altra quarta parte fecero la loro confessione e si prostrarono davanti al Signore, loro Dio. Sul palco dei Leviti si alzarono Giosuè, Bani, Cadmiel, Sebanaia, Bunni, Serebia, Bani e Kenani, e invocarono ad alta voce il Signore, loro Dio. I Leviti, Giosuè, Cadmiel, Bani, Casabnia, Serebia, Odia, Sebania e Petachia dissero: alzatevi, benedite il Signore Dio vostro, ora e sempre. Si benedica il nome tuo glorioso, che sorpassa ogni benedizione e lode. Tu sei Signore, tu solo. Tu hai fatto il cielo, i cieli dei cieli e tutte le loro schiere, la terra e tutto ciò che vi sta, le acque e tutto quanto v'è in esse. Tu dai vita a tutti, e le schiere del cielo si prostrano davanti a te. Sei tu, Signore, il Dio che ha scelto Abramo, l'hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai posto nome Abramo. Hai trovato il suo cuore fedele verso di te e hai stretto con lui un'alleanza per dare la terra dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei Gergesei a lui e alla sua posterità. E tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto. Hai ascoltato il loro grido presso il Mar Rosso. Hai operato segni e prodigi contro il Faraone, contro tutti i suoi servitori e contro l'intero popolo della sua terra, perché sapevi che essi avevano agito arrogantemente contro i nostri padri. E ti sei fatto una tale celebrità che dura ancora oggi. Hai diviso il mare davanti a loro, ed essi sono passati sull'asciutto attraverso le acque, mentre tu precipitavi nell'abisso gli inseguitori come pietra in acque violente. Li hai guidati di giorno con una colonna di nubi e di notte con una colonna di fuoco per rischiarare loro la strada su cui avanzare. Sulla montagna del Sinai tu sei disceso e hai parlato con loro dal cielo. Hai dato loro prescrizioni giuste, leggi di verità, buoni precetti e comandi. Hai reso noto ad essi il tuo santo sabato e hai dato loro, per mezzo di Mosè, tuo servo, comandi, precetti e una legge. Per la loro fame hai dato ad essi un pane dal cielo, hai fatto sgorgare per la loro sete acque dalla rupe e hai ordinato loro di andare a impossessarsi di una terra che avevi giurato di dare loro. Ma essi, i nostri padri, divennero arroganti, indurirono le loro cervici e non ascoltarono i tuoi comandamenti. Si rifiutarono di ubbidire, né si ricordarono più dei miracoli che avevi compiuto per essi. Indurirono le loro cervici e si scelsero un capo per tornare con pervicacia alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio di perdono, clemente e misericordioso, lento all'ira e grande nella benignità. Tu non li hai abbandonati, nemmeno quando si fecero un vitello di metallo fuso, proclamando: «Ecco il tuo Dio che t'ha fatto uscire dall'Egitto», compiendo un oltraggio enorme. Nella tua immensa pietà tu non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nube non s'allontanò di sopra ad essi durante il giorno per guidarli nel cammino, e la colonna di fuoco durante la notte per rischiarare la strada su cui avanzare. Per ammaestrarli hai dato il tuo buono spirito. Alle loro bocche non hai rifiutato la tua manna e hai donato ad essi l'acqua per la loro sete. Per 40 anni ti sei preso cura di loro nel deserto, non soffrirono indigenza, le loro vesti non si logorarono, né si gonfiarono i loro piedi. Hai donato loro regni e popoli, spartendoli a confini, ed entrarono in possesso della terra di Sicon, cioè della terra del re di Chesbon, e della terra di Og, re di Basan. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nella terra in cui avevi detto ai loro padri di entrare per possederla. E i figli entrarono e presero possesso della terra. Davanti a loro hai umiliato gli abitanti del paese, i cananei. Hai dato nelle loro mani i re e i popoli del paese perché agissero con essi secondo il loro arbitrio. Si impadronirono di città fortificate e di un fertile suolo. Possedettero case piene d'ogni bene, cisterne scavate, vigne, uliveti e alberi fruttiferi in quantità. Mangiarono, si saziarono, si irrobustirono e vissero nelle delizie per merito della tua grande bontà. Eppure si ribellarono, insorgendo contro di te. Gettarono la tua legge dietro le loro spalle, uccisero i tuoi profeti che li esortavano a ritornare a te, compirono enormi oltraggi. Perciò tu li desti nelle mani dei loro nemici che li oppressero. Nel tempo della loro angustia, tuttavia, essi gridarono a te, e tu dal cielo li ascoltasti, e secondo la tua grande misericordia desti loro dei liberatori che li salvarono dalle mani dei nemici. Quando però avevano pace, essi tornavano a compiere il male verso di te. Tu li abbandonavi in mano dei loro avversari che li tiranneggiavano. Essi tornavano a supplicarti, e tu li esaudivi dal cielo. Molte volte li hai salvati per la tua misericordia. Li esortavi per farli ritornare alla tua legge, ma essi insuperbivano, non obbedivano ai tuoi comandamenti e peccavano contro le tue prescrizioni, nelle quali colui che le compie trova la vita. Rendevano renitenti le loro spalle, indurivano le loro cervici e non ascoltavano. Pazientasti con essi per molti anni, scongiurandoli mediante il tuo spirito per bocca dei tuoi profeti, ma non prestarono orecchio. Allora tu li hai consegnati in mano ai popoli stranieri, benché nella tua grande pietà tu non li abbia fatti sterminare, né li abbia abbandonati, giacché tu sei un Dio clemente e compassionevole. Ma adesso, o nostro Dio, o Dio grande, potente e terribile, tu che mantieni il patto e la misericordia, non sembrino poca cosa dinanzi a te tutte le tribolazioni che sono cadute su di noi, sui nostri re, i nostri capi, i sacerdoti, i profeti, i nostri padri e su tutto il tuo popolo, dal tempo del re d'Assiria fino al giorno d'oggi. Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è sopravvenuto. Sì, tu hai operato fedelmente, mentre noi abbiamo agito con perfidia. I nostri re, i capi, i sacerdoti e i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge, né hanno badato ai tuoi comandamenti, né agli avvertimenti con cui li ammonivi. E mentre stavano nel loro regno e nella grande prosperità che tu avevi elargito loro sul suolo vasto e fertile che avevi messo a loro disposizione, non ti hanno servito, né si sono convertiti dalle loro pessime azioni. Ed eccoci oggi, schiavi. Siamo schiavi nella terra che avevi donato ai nostri padri, perché si nutrissero dei suoi frutti e dei suoi beni. E gli abbondanti prodotti sono per i re che hai posto sopra di noi a causa dei nostri peccati. Essi dominano a loro arbitrio sulle nostre persone e sul nostro bestiame. E noi ci troviamo in una amarezza sconfinata. A causa di tutto ciò, noi prendiamo oggi un impegno e lo mettiamo per iscritto. Sul documento sigillato figurano i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti. Sul documento sigillato firmarono Neemia, il governatore, figlio di Acalia, e Sedecia, Seraia, Azaria, Geremia, Pascur, Amaria, Malchia, Cattus, Sebania, Malluc, Karim, Meremot, Abdia, Daniele, Gimneton, Baruc, Mesullam, Abia, Miamin, Maazia, Bilgai, Semaia. Questi sono i sacerdoti. Leviti, Giosuè, figlio di Azania, Binnui, dei figli di Kenadad, Cadmiel e i loro fratelli, Sebania, Odia, Chelita, Pelaia, Canan, Mica, Recob, Casaoia, Zaccur, Serebia, Sebania, Odia, Bani, Beninu. Capi del popolo: Pareos, Pacat Moab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Ezechia, Azur, Odia, Casum, Bezai, Carif, Anatot, Nebai, Magpias, Mesullam, Kezir, Mesezabel, Zadok, Yadua, Pelatia, Canan, Anaia, Osea, Anania, Kassub, Alloches, Pilca, Sobek, Rekum, Casabna, Maaseia, Achia, Canan, Anan, Malluc, Karim, Bana. Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, gli oblati e tutti coloro che si sono separati dalle popolazioni locali per seguire la legge di Dio, le loro spose, i figli e le figlie, cioè tutti coloro che sono capaci di intendere, si uniscono ai loro fratelli, ai loro principi, e contraggono un patto e un giuramento di camminare secondo la legge di Dio che è stata data per mezzo di Mosè, servitore di Dio,

figlio di Zadok, figlio di Meraiot, figlio di Achitub, capo del Tempio, e i loro fratelli addetti al lavoro del Tempio, in numero di 822. Adaia, figlio di Jerocam, figlio di Pelalia, figlio di Amsi, figlio di Zaccaria, figlio di Pascur, figlio di Malchia, e i suoi fratelli, capi delle casate, in numero di 242. Amasai, figlio di Azareel, figlio di Akzai, figlio di Mesillemot, figlio di Immer, e i loro fratelli, uomini valorosi, in numero di 128. Zabdiel, figlio di Gedolim, era loro capo. Dei Leviti, Semaia, figlio di Cassub, figlio di Azricam, figlio di Casabia, figlio di Bunni, Sabbetai e Iosabad, preposti al servizio esterno del Tempio, fra i capi dei Leviti. Mattania, figlio di Mica, figlio di Zabdi, figlio di Asaf, il capo della Salmodia, che intonava le lodi durante la preghiera. Bacbuchia, che gli veniva secondo tra i suoi fratelli. Abda, figlio di Sammua, figlio di Galal, figlio di Jeditun. Totale dei Leviti nella città santa, 284. I portieri, Accub, Talmon e i loro fratelli, custodi delle porte, 172. Il resto di Israele, dei sacerdoti e dei Leviti, si è stabilito in tutte le città di Giuda, ognuno nella sua proprietà. Gli oblati si sono stabiliti sull'Ofel, e Zica e Gispa erano a capo degli oblati. Il capo dei Leviti a Gerusalemme era Uzzi, figlio di Bani, figlio di Casabia, figlio di Mattania, figlio di Mica, dei figli di Asaf, che erano i cantori addetti al servizio del Tempio. Poiché vi era un ordine del re che riguardava i cantori, e vi era una provvista assicurata loro ogni giorno. Petachia, figlio di Mesezabeel, dei figli di Zerach, figlio di Giuda, suppliva il re per tutti gli affari del popolo. Quanto ai villaggi con le loro campagne, alcuni figli di Giuda si sono stabiliti in Kiriat Arba e nei villaggi dipendenti, in Dibon e nei suoi villaggi, in Jekabzeel e nei suoi villaggi, in Jesua, in Molada, in Bet Pelet, in Kazar Sual, in Bersabea e nei suoi villaggi, in Ziklag, in Mekona e nei suoi villaggi, in En Rimmon, in Zorea, in Yarmut, in Zanoac, in Adullam e nei suoi villaggi, in Lachis e nei suoi villaggi, in Azeca e nei suoi villaggi. Si sono stabiliti da Bersabea fino alla valle di Innom. I figli di Beniamino si sono stabiliti a Geba, Micmas, Aia, Betel e nei luoghi che ne dipendevano, ad Anatot, Nob, Anania, a Azor, Rama, Gittaim, Kadid, Zeboim, Neballat e Lod e Ono nella valle degli artigiani. Dei Leviti, parte si è stabilita con Giuda, parte con Beniamino. Questi sono i sacerdoti e Leviti che sono tornati con Zorobabele, figlio di Sealtiel, e con Giosuè. Seraia, Geremia, Esdra, Amaria, Malluc, Cattus, Secania, Recum, Meremot, Iddo, Ginneton, Abia, Miamin, Maadia, Bilga, Semaia, Ioiarib, Jedaia, Sallu, Amok, Chelchia, Jedaia. Questi erano i capi dei sacerdoti e dei loro fratelli al tempo di Giosuè. Leviti, Giosuè, Binnui, Cadmiel, Serebia, Giuda, Mattania, che con i suoi fratelli era preposto al canto degli inni di lode. Bacbuchia e Unni, loro fratelli, stavano di fronte a loro, secondo i loro turni di servizio. Giosuè generò Ioiachim, Ioiachim generò Eliasib, Eliasib generò Ioiada, Ioiada generò Jonata, Jonata generò Iaddua. Al tempo di Ioiachim, i sacerdoti che erano i capi delle casate sacerdotali erano i seguenti:

Alcuni uomini furono preposti alle stanze che servivano da magazzini per le offerte, per le primizie e per le decime, allo scopo di raccogliervi dai contadi delle città i quantitativi fissati dalla legge per i sacerdoti e i leviti. Poiché i sacerdoti e i leviti, nelle loro funzioni, erano la gioia dei giudei. Essi assicuravano il servizio di Dio e il servizio delle purificazioni. Altrettanto facevano i cantori e i portinai, secondo l'ordine di Davide e di Salomone suo figlio. Fin dall'antichità, infatti, dai tempi di Davide e di Asaf, c'erano capi cantori e cantici di lode e di ringraziamento venivano innalzati a Dio. Ai tempi di Zorobabele e ai tempi di Neemia, tutto Israele dava i quantitativi fissati per i cantori e i portinai, giorno per giorno. Dava ai leviti le offerte sacre e i leviti ne davano ai figli di Aronne. In quel tempo si lesse il libro di Mosè alla presenza del popolo. Vi si trovò scritto che l'ammonita e il moabita non dovranno mai entrare nell'assemblea di Dio, perché non vennero incontro ai figli di Israele con pane e acqua, e perché questi ultimi pagarono Balaam perché maledicesse Israele. Ma il nostro Dio cambiò quella maledizione in benedizione. Come ebbero ascoltato la legge, essi esclusero da Israele tutti i forestieri. Prima di questi fatti, il sacerdote preposto alle camere della casa di Dio, Eliasib, parente di Tobia, aveva preparato per costui un'ampia camera, là dove prima venivano riposte le offerte, l'incenso, gli utensili, le decime del grano, del mosto e dell'olio, ossia quanto spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portinai e il contributo per i sacerdoti. In tutto questo periodo io non ero stato a Gerusalemme, perché nell'anno 32esimo di Artaserse, re di Babilonia, ero ritornato presso il re. Dopo un certo tempo, avendone fatto richiesta al re, ritornai a Gerusalemme. Mi resi conto allora del male che aveva fatto Eliasib a vantaggio di Tobia, adattandogli una stanza nei cortili della casa di Dio, e ne rimasi fortemente irritato. Feci gettare tutte le masserizie della casa di Tobia fuori della camera e ordinai che le stanze venissero purificate. Poi vi feci rimettere gli utensili del Tempio di Dio, le offerte e l'incenso. Venni anche a sapere che le porzioni dovute ai leviti non erano state consegnate e che i leviti e i cantori che facevano servizio se n'erano fuggiti, ciascuno alla sua terra. Rimproverai allora i magistrati e dissi: per qual ragione la casa di Dio è stata abbandonata? Poi radunai i leviti e li ristabilii nel loro ufficio. Tutto Giuda portò ai magazzini le decime del grano, del mosto e dell'olio. Affidai la sorveglianza dei magazzini al sacerdote Selemia, allo scriba Zadok e a Pedaia, uno dei leviti, e come loro aiutante a Canan, figlio di Zaccur, figlio di Mattania, giacché costoro erano ritenuti persone di fiducia. Spettava ad essi il compito di far le ripartizioni per i loro fratelli. Per questo ricordati di me, o Dio mio, e non dimenticare le opere di pietà che ho compiuto per il tempio del mio Dio e per la vigilanza sopra di esso. In quel tempo osservai in Giuda alcuni che in giorno di sabato pigiavano l'uva, portavano mucchi di derrate e caricavano sugli asini vino, uva, fichi e ogni sorta di fardelli e li portavano di sabato a Gerusalemme. Allora li rimproverai a motivo del giorno in cui vendevano derrate. Alcune persone di Tiro che avevano preso dimora in Gerusalemme importavano pesce e ogni specie di mercanzia e poi la vendevano ai figli di Giuda di sabato e in Gerusalemme. Allora rimproverai i notabili di Giuda e dissi loro: che cos'è questa mala azione che andate compiendo col profanare il giorno di sabato. Non fecero lo stesso i vostri padri? E così il nostro Dio ha fatto venire tutta questa rovina sopra di noi e sopra questa città. Voi accrescete la sua ira contro Israele, profanando il sabato. E detti ordine che appena le porte di Gerusalemme cominciavano ad essere nell'ombra, prima del sabato, le porte fossero chiuse. Aggiunsi che non si dovevano aprire fino a dopo il sabato. Collocai anche qualcuno dei miei uomini davanti alle porte, affinché nessun carico entrasse in giorno di sabato. Ma i mercanti e i venditori di ogni sorta di mercanzie passarono la notte appena fuori di Gerusalemme una o due volte. Allora io li rimproverai fortemente e dissi loro: «Per qual ragione voi passate la notte davanti alle mura? Se lo fate ancora una volta, metterò le mani su di voi». Da quel tempo non vennero più di sabato. Ordinai inoltre ai Leviti che, dopo essersi purificati, venissero a custodire le porte per santificare il giorno di sabato. Anche per questo ricordati di me, o Dio mio, e abbi pietà di me, secondo la grandezza della tua misericordia. Sempre in quei giorni notai che alcuni giudei avevano sposato donne asdodite, moabite e ammonite. La metà dei loro figli parlava la lingua di Asdod, oppure la lingua di questo o quel popolo, e non sapevano parlare la lingua giudaica. Allora io li svergognai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio: «Non date le vostre figlie ai loro figli, né prendete tra le loro figlie le spose per i vostri figli né per voi. Non peccò forse per colpa di esse Salomone, re d'Israele? Non v'era fra i molti popoli un re simile a lui? Era amato dal suo Dio e Dio l'aveva costituito re di tutto Israele. Eppure le donne straniere condussero anche lui a peccare. Dovrà udirsi anche di voi che commettete questo grande male, che siete infedeli al nostro Dio prendendo donne straniere?» Un figlio di Ioiada, figlio di Eliasib, sommo sacerdote, era genero di Sanballat il coronita. Io lo cacciai via da me. Ricordati, o mio Dio, di essi, perché hanno profanato il sacerdozio e il patto dei sacerdoti e dei leviti. Così io li purificai da ogni forestiero, fissai gli uffici per sacerdoti e leviti, ciascuno al proprio servizio. Diedi pure disposizioni circa le offerte di legname ai tempi fissati e le primizie. Ricordati di me in bene, o Dio mio.